Cobra non è un serpente, ma pensiero frequente che diventa indecente. Quando vedo te. Il cobra non è una biscia, ma un vapore che striscia con la traccia che lascia. Dove passi tu? Il cobra cruciale, se lo vuoi ci fa male. Perché? Facci così, così. Il cobra brosone, di pietra d'ottone, è un nobile servo che vive in prigione. Il cobra non è un vampiro, ma la lama sospira che diventa un impero. Quando vedo te. Il cobra non è un pitone, ma un gustoso boccone che diventa canzone. Il cobra non è...